accendendo, 5 minuti lo accendo. No, la mia era accesa, siamo arrivati prima a casa, eravamo in campagna, verso le 4 e mezza, circa 4 e un quarto, boh. E siamo arrivati, come sono arrivato l'ho acceso, ma non c'era nessuno. E oggi è giornata fredda già, ma in casa ci stava benissimo. C'era la stufa accesa. Vabbè, allora, andate davvero, va a te, sì, da. E allora, la cucina, la stufa a legna, là, che fa anche da cucina. E scalda in una maniera allucinante, sta benissimo. Sì, chiaro, sì, Luca, no, la cucina non è tutta a legna, fate in ghisa e poi ci mette la legna dentro. Lo so. Ehi, vabbè, pensavo fosse fatta in legno la cucina. Ciao, Pittino, buonasera, Zinudi, a te e a Gianni, avanti. Bacchi c'è a questa parte. Ehi, ciao Bacchi, cos'è che hai detto già? Sì, sì, già. Scalda, scalda. Solo che la legna costa. Peccato. Perché, vabbè, già si fa la legna in campagna, ogni tanto si taglia qualche ramo, da qualche albero. Alberi già ce ne sono, ogni tanto si recupera un po' di legna. E allora, via. E dove vieni già oggi? A casa. Ho capito, io stamattina ho sistemato un telefono, un iPhone 7, che praticamente il primo display mi ha dato problemi, boh, vabbè, poi ne ho ordinato un altro, c'è tutto a posto, gliel'ho già consegnato. Praticamente non funzionava il tastom, perché c'era il flat un po' danneggiato, che volendo lo potevo anche recuperare dall'altro vecchio. Comunque il display, l'altro, che insomma ne ho ordinato un altro nuovo, no? Il display, alla fine non ci ho guadagnato niente, però sono riuscito a recuperare l'altro, dai, l'altro, quello che ho acquistato, che c'era il flat danneggiato, perché l'ho staccato da quello vecchio. Già, c'era il flat danneggiato, non lo so, forse l'ho danneggiato io piazzandolo, smontandolo, boh, non lo so. Poi vabbè, un casino, perché l'ho pagato quasi 60 euro, ma comunque l'ho recuperato, sono sicuro che funziona al 1000 per 1000, perché funziona. Ho recuperato il flat dal vecchio display rotto. Due. Aspetta, telefono. Ehi, ma chi, Giovanni? Olla, olla la cipolla. Gianni!